sta abbastanza bene, bene, bene. Ha pagato, ha tentato di dico, il furo fintasse una fiara, e se ce lo dico per radio, ho sentito il tuo bippi. Da quale che so sentivi il mio pippi? Allora, qui adesso è una fiare, io ieri mi sono, cioè ieri, l'anno scorso ho preso il melone, l'avevo comprato, ho messo i semi e sono uscite già le piante. Adesso col caldo ce ne vai acqua già in naffia, ma poi c'è un po' di piante e quindi sto rinaffiando a quest'ora che cala un po' il sole, capito? Qua. Va bene, va bene. Mi stai ascoltando bene, sì? È a voglia che ti ascolto bene. A voglia piante in campagna che ci hanno avuto da parte. Piante di mele, di tutto c'è. Meno grani. Tutto abbandonato. No, no, non è troppo impegno. No, è cattivo così. Mi sono lamenta. Tanti girasole che sono belle. Poi vabbè, altre piantine, insomma, così. Giusto per abbellire un po' e basta. Perché c'è il prato e quindi non voglio mettere niente. Non sto manco più mettendo la macchina dentro. Sempre fuori vicino al cancello proprio per non calpestare il prato. Va bene, beh, la frequenza come va? Io era un po' che non entro, ogni tanto mi sento, mi saluto, basta, non c'è più tempo e non c'è più voglia neanche la verità. È buona la frequenza, ne sono una lì che non entro io. Oh, più che altro mi diverto ad ascoltare qualche volta che quando sono a casa in PMR e poi con l'accappalato, con la grande che c'ho. Poi vabbè, con questo barattino qua ogni tanto lo accendo quando mi chiama mia nipote laggiù e quindi ci facciamo compagnia a vicenda. Dopodiché prendo e spengo, perché devo stare tutta la sera a baracchino. C'ho ancora l'alimentatore smontato già quasi 2 settimane, per cambiare i ponti di io ancora non l'avevo cambiato, non avevo proprio voglia. Poi adesso con la questione dei cassonetti che li hanno tolti, è un casino. Hai capito? Tutti i cassonetti in via Carlo Felice, dove abitavi tu, tutti li hanno tolti. Sono tutti dentro i condomini, i cassonetti, quindi non fuggi. Se butti qualcosa di strano, immediatamente ti acciappano subito. Beh, ma anche giusto, no, vabbè, io ho quello verde, quello marrone e quello giallo, piccolini. La moglie è così, ogni mercoledì e venerdì. Quindi sabato e la domenica la moglie sta della Magni. E così, ma in città stava succedendo un po' di tutto, troppa gente maleducata, che buttava, faceva, alla fine quasi quasi hanno fatto bene, forse rimane più pulita la sovietica, non so, se hanno trovato questa soluzione, vuol dire che è così. E va bene, quindi non sta entrando più nessuno in radio. Hai spegnato i baracchini, eh? Non lo so, è entrato uno e ha detto spegnere i baracchini, ma è di tiro mi sembra. Hai spegnato i baracchini dalla baracca. Gli altri l'ha già appena acceso, dice che l'accendo invece funziona. Sant'Evo no, ve lo lasci nell'ufficio. Allora, sto preparando le cosette qua, ce lo in ascolto qua. Ciao Antonio. Ciao anche a te, ma non ho capito chi sei, dove sei entrato? Ma sembra Vittino, invece non sei Tino. Penso la Lucy. Ah no, c'avevo ragione. Ma siete così basso, ma lo vediamo lo sì. Se sono qua trovati questi, cosa vuoi ti dica? Sono fuori casa. Ah, ecco, perché di solito tu arrivavi dove, dove qualche cosa, quindi mi è venuto il dubbio a me. Ma perché quando ti sei arrivato a te, gli arriva più forte a me che a te? Beh, claro, io gioco che arriva più forte a te, ce l'hai di fronte, mica da tale discorso sono. Se io mi sposto da qui, me ne vado più giù del quadrato, dove c'è il tappettino, se vado lì, lo sai come lo sento a lui? Un bel forte lo sento, perché è l'unico punto che dove c'è il tappetino che è aperto per lui. Ma Santiago non, io non lo vedo la pelocera qua, attenzione, non me lo sa se quindi, perché anch'io sono molto in alto, però sono leggermente nella vallatina, diciamo, capito, quindi non lo vedo, però arriva molto bene Tino. Un 4 watt va Santiago 9. Grazie Benedizia, sì c'è. No, ancora no. Ancora c'è troppo caldo. Sono con il SER, Claudio. Con il SER SSB. Quindi cosa pretendi? Il microfono va bene, quello amplificato, però 4 watt sui originali. Bene, ti arrivando, ti mando la radio quella, certo, SSB 50, ho avuto anch'io quello, con la pellicola marrone, diciamo, color marrone, color noce. Non c'è chiaro, è una bella radio, esce molto molto bene, l'avevo provato una volta, non mi ricordo se è con l'MB più 5 o col Turner più 3B, e ti dico che era una bomba, stai arrivando veramente bene, radio super 5, segnale 9. Sì, già va bene, no, con il più 5 sono adesso, ma aspetta un attimino, ti chiamo dall'altra parte, io voglio provare una cosa. Eia, sono qua. E Simone come sta Antonetto, bene? Eia, tutto bene. È uscita stamattina, faccio una passeggiata anche stasera, ho sentito televisione, se vai 4 anni lì vicino a cosa, dove abita lì, stai bene, ti danno la casa, ti danno e ti danno a fruttare le balle, io gira, faccio domanda, me ne vado 4 anni lì e poi me ne torno in Sardegna. Eia, Claudio! Eia, ti! Beh, questo qua è un altro, però attaccato al camper, dai! Guarda, sì, Santiago 7 è abbondante, ottimo segnale anche questo, con l'antenna della macchina, quindi l'antenna del camper. Cosa? Io cambio. Eia, già va bene, Santiago 7, vabbè, questo è l'antennino, questo è la PNC 2000, quindi, cosa pretendi di più? Santiago 7 è un ottimo segnale, ti aspetta, io anche sono dietro l'angolo, va benissimo alla grande, sì. Santiago 7 e con l'altra Santiago 9, voi mi dicevi bene? Sì, ha voglia, sento anche Antonello, Antonello prova! Adesso si è aumentato, la metà si è aumentato adesso. Addirittura sono aumentato. Questo è quello che avevo in macchina prima, dai, adesso l'ho piazzato qua. L'altro giorno mi hanno regalato uno stilo di boomerang, tutto caricato nero. E ricordi quelle antenne che si usavano una volta in macchina? Uguale, sì e no, 1,20 m, 1,30 m, tutta bella caricata. Quella va bene per il camper, però piazzata come si chiama, non è che va bene, non è che puoi mettere così, è una specie, è una boomerang in pratica, quella già esce bene, me l'hanno regalata l'altro giorno, dice io non so cosa farmi, non te la prendi, tu dammela, è bella, funziona bene, l'ho fatto senza radiale perché la radiale non ne ha, ma già me lo busso esco da radiale, appena sbloccano la questione di che tutto sequestrato, dove abitava il corvo, mi trasbloccano quello e piglio tutte le antenne che ci sono della macchina e me lo porto via io. Va bene, dai, che scendo, volevo solo sapere come arrivava qua, dai. Bene, bene, arriviti, non c'è problema, lascia tutto così, la mia radio è sempre quella, va bene? Va bene, la radio è microfono normale questo, No, la mia, 4.30, sta andando bene, la radio è sempre quella. Sì, è sopra, vedete qua, va bene, dai, che scendo. Eia, positivo, la radio sta andando bene, sta radio. Sempre in galaxia acceso, mica sempre il labbro, tu dici che la facciamo andare un pochino a scaldare, ma questa già non è il 4.40, non ha bisogno di un muletto, già va bene. Va bene Antonetta, hai sentito Teo, salutato Teo, salutami a tutti, un abbraccio, baci e abbracci a tutti, anche quelli che sono in ascolto, vai, chiudo. Vado in veranda, prendo una boccata d'aria. Ci sentiamo, Antonio. Piacere mi ha fatto ascoltarti. Ciao, ciao anche a Tino. Ciao, Cla, ciao, ci si ascolta. Dai che sono indaffarato. Ciao, Antonio, riprendi tu. Ciao, ciao. Ciao, Tino, ciao, Cla, ci sentiamo. Ok, sta bene, sta bene. Buona serata e buona cena con tutto. Grazie, grazie a tutte e due, alle prossime occasioni. Ciao, ciao. Attenzione, sarà le 10, qualcuno? Attenzione, sarà le 10. Attenzione, sarà le 10. Attenzione, binario 10, binario 10. Chiama canale 10, cambio. Attenzione, attenzione, Houston, Houston, Houston, chiama canale 10, cambio. Ci siamo, cambio. Cambio, non c'è nessuno, cambio.